Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente la visita, forse quasi più una missione, di Matteo Renzi, del Presidente del Consiglio, a Milano per dare pieno appoggio ai vertici dell'Expo, per ribadire che se si vince questa sfida a Milano è una sfida che vince l'intera Italia e si rifà l'Italia. Sbigottito Renzi per i nomi del passato che ritornano e ha detto non sottovaluto quanto è successo. Ne parleremo, anche perché poi vi è stata anche la dichiarazione del commissario straordinario dell'Expo Giuseppe Sala, e poi invece sta parlando Grillo, che ha detto ora c'è il commissario del commissario, arriva il supercommissario che è il supercommissario alla corruzione. Lui stava all'ufficio dove prendeva anche uno stipendio, ora è un commissario che va a commissariare un commissario, il commissario che doveva commissariare prima invece dice lui che non è d'accordo, ci vuole uno psichiatra. E va bene, nel giorno in cui arrivano anche le perquisizioni ordinate dalla Procura di Roma al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è entrata la Guardia di Finanza con il nucleo speciale frodi tecnologiche, perché sono andati a fare degli accertamenti sulle postazioni e le apparecchiature dei tre funzionari del Ministero dell'Economia e Finanze, dove si ipotizza possano essere, da dove si ipotizza possono essere fatte uscire delle informazioni riservate sul documento di programmazione economico-finanziaria uscite da quei computer. Però in apertura torneremo indietro, si fa per dire, di almeno 3 anni, e cioè torneremo a quel maledetto, perché erano giorni di estrema tensione, G20 del 3 novembre del 2011, e quindi gli anni sono anche 3 e mezzo, quando vi fu, ricorderete, alcuni di voi ricorderanno, lo spread italiano era 462 punti, era ancora Presidente del Consiglio, era salito fino a 500 punti, anzi CDS, il credit default swaps, quello che va a misurare, diciamo, il rischio paese, il rischio per assicurare chi investe in un paese, era salito a 502 punti. Erano giornate veramente convulse in cui sostanzialmente l'Italia, secondo molte fonti, non riusciva a collocare il suo debito se non presso la Banca Centrale Europea, cioè il nostro debito ce lo comprava solo la BCE, gli investitori scappavano. Ebbene, perché ne torniamo a parlare? Perché nel libro dell'ex ministro dell'economia americano Timothy Geithner, che noi chiamammo timido Geithner perché in realtà aveva avuto un approccio molto molto timido nei confronti di Wall Street, da dove veniva, dove è tornato, è un approccio molto timido nei confronti della finanza che aveva creato la crisi. Beh, in questo libro, dove Geithner racconta anche altre cose, c'è un passaggio che sta creando anche un caos politico in Italia. Geithner dice di aver ricevuto in quei giorni, in quel vertice, una proposta dall'Europa, fatta proprio all'America, per orchestrare un piano finalizzato a far cadere Berlusconi. Gli USA avrebbero però rifiutato. No comment oggi da parte di vari fonti, per esempio la portavoce della Commissione Europea Pia Arenchilde. Brunetta invece ha chiesto che Renzi riferisca alla Camera, ma insomma sarà anche l'occasione per ricordare che cosa capitò in quei giorni, anche perché oggi il Financial Times cita e ricorda, o meglio, è la prima volta che io lo leggo in realtà, di una delle lacrime di Angela Merkel. Angela Merkel in quei giorni fu sull'orlo delle lacrime perché era pressata dai partner europei e dagli Stati Uniti per aumentare il sostegno finanziario ai paesi del sud Europa. Gli Stati Uniti, questa è la cosa nota, erano molto preoccupati della piega che stava prendendo l'attacco all'euro e ai debiti dei paesi del sud Europa, molto preoccupati di una disgregazione europea, anche perché, diciamola tutta, agli Stati Uniti avere l'euro forte fa comodo con un dollaro debole, altra cosa è avere il caos nell'area euro. La Merkel, secondo la ricostruzione del Financial Times, ebbe le lacrime agli occhi e disse: io non posso decidere, non ho il potere, queste cose le decide la Bundesbank. Questo nei giorni e nelle ore in cui lo spread era alle stelle, i tassi sui BTP italiani e spagnoli a 10 anni erano sopra il 7%, erano giorni in cui, alcuni di voi lo ricorderanno, rendeva di più comprare il debito italiano a breve, a un anno, a tre anni, che non a 10 anni. Perché questo? Di solito è l'opposto, di solito viene impagato di più quando investi sul debito di un paese per 10 anni, ma non c'era, si era invertita la curva dei rendimenti perché non si andava nemmeno a vedere cosa avrebbe fatto l'Italia fra 10 anni, si riteneva che potesse non reggere il debito italiano nemmeno nell'anno e tre anni, quindi rendeva di più comprare debito a breve che non debito a lungo. Di questo parleremo nel giorno in cui la borsa perde l'1%, mentre Parigi guadagna lo 0,20, Francoforte lo 0,50, Londra lo 0,20. Da noi di positivo c'è Prismian più 2,80, Estima Microelectronics più 1%, Luxottica più 0,30 come Tod's. Fronte opposto invece, Telecom Italia perde il 5,30% oggi, Campari il 3,80%, Fiat il 2,80%, la Popolare di Milano perde il 2,60%, UbiBanca il 2,16%, Azimut il 2,40%, Autogrill l'1,70%, Intesa San Paolo meno 1,40%. A New York l'indice Standard & Poor's ha toccato anche i 1900 punti, Telecom invece da noi perde dopo i conti, oggi è uscita la trimestrale, l'utile è calato del 39% a 222 milioni di euro, i ricavi sono calati del 6,2%, ragionamento analogo anche per Campari, anche oggi i conti peggio delle attese, l'utile dei primi tre mesi per Campari cala bruscamente del 47% a 20 milioni di euro, pesa l'effetto dei cambi e i ricavi scendono dell'8,4%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, avete ragione, il picco di spread fu a 574 punti, stavo solo dicendo che durante il vertice di Cannes lo spread italiano era 480, 485, 474, poi saliva e rompeva anche i 500 punti, ma era per dare il quadro di quelle giornate terribili, perché non tutti forse se ne sono accorti, ma abbiamo rischiato veramente di saltare come paese e come debito. Rapidamente le altre notizie in breve. Siamo come sempre dall'economia internazionale. Ad aprile nuovo record di vendite per la BMW, più 4,3%, trainata soprattutto dalle economie emergenti. BMW vuole superare i 2 milioni di auto vendute nel 2014, sarebbe la prima volta nella sua storia. Nuovo record di vendite anche per Volkswagen, gennaio-aprile più 6%. Nei primi 4 mesi del 2014 il gruppo tedesco ha piazzato 3 milioni e 200 mila auto. Evidentemente il mercato è ripartito, non lo dico sulla polemica con Fiat, basta avere i modelli. Il mercato è ripartito, non è solo BMW, anche Volkswagen. Ora Volkswagen è abbastanza in linea con i segmenti della Fiat. Dall'America arriva la notizia che AT&T, colosso delle telecomunicazioni, sarebbe in trattative con DirecTV, il maggior operatore di TV satellitare negli Stati Uniti, per un accordo da 50 miliardi di dollari che cambierebbe il panorama della pay TV americana. Questo nelle giornate in cui stiamo molto ragionando dell'ipotesi che Murdoch, quindi BSkyB, realizzi un'unica piattaforma di pay TV su base europea. In America si sono già mossi. AT&T ha un valore di mercato DirecTV ha un valore di mercato di 44,5 miliardi di dollari. E questo arriva in un momento di profondo cambiamento anche nelle telecomunicazioni americane. Comcast, per esempio, sta cercando via libera dalle autorità di vigilanza per l'acquisto di Time Warner and Cable, e Sprint, la compagnia telefonica controllata da SoftBank, sta valutando un'offerta per T-Mobile US. L'euro è a quota 1,37, sceso anche sotto quota 1,37. Ricordo che la scorsa settimana viaggiava a quota 1,40 sul dollaro. È ancora molto forte, lo dico tranquillamente. Secondo me, un rapporto di cambio che rispecchi il reale peso delle due economie, area euro e economia statunitense, è a 1,1. Quindi 1,37 è ancora alto, però è sceso sulle attese di un intervento della Banca Centrale Europea. Oggi la Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha detto di essere pronta a sostenere un pacchetto di misure di stimolo da parte della Banca Centrale Europea al prossimo consiglio della BCE di giugno. Fra queste anche l'ipotesi di avere tassi negativi sui depositi delle banche. Che cosa succede? Molte banche ancora depositano di notte il tasso overnight, i soldi alla Banca Centrale Europea, e li ritirano il giorno dopo. Ora, se il rendimento fosse negativo, tu potresti continuare a farlo, ma ci perderesti dei soldi e quindi diventerebbe un'ipotesi meno appetibile. Nuove aste anche oggi, anzi un'asta soprattutto, il BTP a 3 anni, 6 miliardi e 250 milioni di debito italiano collocato per 3 anni. Buona la domanda. Il tasso è tornato sopra l'1%, il mese scorso toccò un record minimo dello 0,93%, collocati anche 2,25 miliardi del BTP a 7 anni al 2,29% di rendimento, quindi in calo rispetto all'asta precedente. E poi si è saputo oggi che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a Deutsche Bank, HSBC France, JP Morgan, Monte dei Paschi di Siena e Royal Bank of Scotland il mandato per collocare un nuovo BTP a 15 anni con scadenza 1 marzo 2030. Inflazione in Italia, l'Istat conferma ad aprile leggermente risalita allo 0,6%, è il primo rialzo dopo 10 mesi, su base mensile i prezzi salgono dello 0,2%, interessante notare che Venezia, città che era entrata in deflazione, quindi da 3 rilevazioni almeno aveva prezzi in calo, invece è tornata ad avere prezzi fermi, esce dalla deflazione, prezzi piatti a Milano. Restano i prezzi in calo solo a Livorno, Palermo fa più 0,9 rispetto all'anno prima, Bolzano più 1,1, Cagliari più 0,8, Genova più 1,3%. Il tasso di inflazione annua più alto, se si guarda ai comuni sopra i 150.000 abitanti, è quello di Messina, più 1,2%. Che molta strada resta da fare per recuperare i livelli del 2007, lo ha ricordato oggi il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi in audizione alla Camera, alle commissioni attività produttive e politiche dell'Unione Europea. Siamo ancora sotto del 24% dal picco dal 2007, quindi io lo dico spesso, è come se un'impresa su 4 avesse chiuso, il 25 quasi per cento in meno di produzione industriale. 91.000 imprese si sono fermate, il PIL italiano è tornato ai valori del 1996. E questa è una guerra, 91.000 imprese che hanno chiuso, un PIL che torna indietro al 1996 e una produzione industriale che è sotto di un quarto, è l'esito di una guerra, senza per fortuna morti, o perlomeno non morti in guerra. E del resto basta guardare l'ultimo dato che ho per voi, poi ascolteremo anche Renzi e Sala sull'Expo, poi ne riparleremo. Riguarda il mercato immobiliare, quello delle case, non degli uffici, continua la sua discesa anche nel 2013. Le compravendite hanno toccato il minimo di 407.000 unità e quindi siamo sotto anche i livelli del 1985, quando vennero vendute e quindi comprate 430.000 abitazioni, meno 9% rispetto al 2012. Però qualche segnale arriva dalle banche. Oggi segnalo l'intervista del numero uno di Unicredit, Ghizzoni, sul Sole 24 Ore, ma arriva Unicredit, già ieri aveva fatto notare che era aumentata l'erogazione dei mutui. In realtà i nuovi mutui nel primo trimestre 2014 hanno fatto più 20% e Sabatini dell'ABI dice i segnali iniziano a essere positivi. Sono però calati i prezzi, anche se vi è stato un miglioramento dei tassi di interesse sui mutui. Il tasso medio praticato sui mutui infatti è risultato a fine 2013 del 6,7%, ed è tornato ai livelli pre-crisi. Allora, prima di arrivare al complotto, o meglio, non tanto il complotto contro l'euro, ma diciamo il gioco di scacchi che si svolgeva in quel fine settimana a Cannes. E Geithner dice che gli fu chiesto di orchestrare un'azione per far cadere Berlusconi. Devo dire che poi Berlusconi è caduto comunque per la pressione e per quello che stava capitando sui mercati finanziari. A 570 punti l'Italia rischiava di non riuscire più, c'è un punto di non ritorno anche nei CDS, in cui tu non riesci più a ripagare il tuo debito quando i tassi di interesse sono troppo alti, ed è immaginabilissimo che a quel punto le pressioni siano arrivate per la condizione economica che il paese stava attraversando e per l'attacco che il paese stava attraversando. Ricordo anche una situazione molto delicata, poi ne parleremo, tra il presidente del Consiglio Berlusconi e il ministro dell'economia Tremonti. Non si parlavano, per cui questo non aiutava a dare un'immagine di un paese affidabile. Però prima di arrivare a questo, sentiamo cosa ha detto oggi Renzi sui cantieri nelle scuole. Dice che da qui ai prossimi mesi verranno aperti 10.000 cantieri nelle scuole. Partiamo dalla scuola perché la scuola è il futuro del nostro territorio. Partiamo dalla scuola perché nella scuola ci stanno persone che lavorano per 1.200 euro al mese educando alla libertà i nostri figli. Partiamo dalla scuola perché ci stanno lì le sensibilità e le bellezze più grandi, quelle delle nuove generazioni. Partiamo dalla scuola perché pensiamo che dare un messaggio nella scuola significhi dare un messaggio all'intero paese. E andando nella scuola non andiamo con le parole, andiamo con i fatti. Erano 1.000 gli interventi sui cantieri scolastici delle precedenti esperienze del governo. Noi abbiamo portato, grazie agli investimenti che abbiamo messo allo sblocco del patto di stabilità, a finanziare 10.000 cantieri. Vedo qualche autorevole sindaco anche di altre parti politiche che sa quanto abbiamo combattuto anche insieme da posizioni diverse contro questa assurdità del patto di stabilità per i nostri cantieri scolastici. Bene, da qui ai prossimi mesi 10.000 cantieri nelle scuole. E speriamo che non siano solo promesse, visto che è l'edilizia locale quella che ha il maggior impatto positivo sul PIL e sui consumi, perché vai a finanziare anche piccole opere con ricaduta immediata sul territorio, più che le grandi opere che poi hanno tutto un altro iter. Quindi meglio le piccole opere in questo momento come effetto anticiclico, cioè contro un ciclo dell'economia così basso. Vorrei far sentire anche il passaggio però di Renzi quando dice: se vinciamo la sfida di Milano facciamo l'Italia. Siamo cioè in una città che è per l'intero paese un punto di riferimento. Questa città oggi vive un passaggio che è un passaggio delicato, lo abbiamo detto, ma chiave e strategico per noi. Se vinciamo la sfida dell'Expo facciamo l'Italia. Se ci tiriamo indietro nel momento clou siamo non l'Italietta, non siamo più coerenti con i nostri valori, con la nostra tradizione e anche con le nostre speranze di futuro. L'Expo sia una strepitosa opportunità. C'è un valore economico innegabile, sono i valori che vi siete abituati a sentire ormai a memoria, i posti di lavoro, compreso l'indotto, i miliardi di investimenti, le occasioni di crescita per il futuro. Arriviamo arriviamo a 2 anni e mezzo, a 2 anni e mezzo fa, ho detto 3 anni e mezzo, mi fanno notare alcuni ascoltatori, ho sbagliato chiaramente. Però c'è chi mi contesta, dice una guerra senza morti, quella che abbiamo vissuto, si dimentica gli imprenditori. Come faccio a dimenticarmi? Abbiamo fatto anche un'iniziativa con Oscar Giannino che si chiamava Disperati Mai. Ho detto una guerra senza morti, diciamo soldati, una guerra senza morti di quel tipo, e poi i morti purtroppo ci sono stati per questa, diciamo, chiamiamola così, guerra. Gli esiti sono quelli di una guerra, cioè quando tu dopo 7 anni sei con un quarto della produzione industriale, 91.000 imprese chiuse, il record di disoccupazione storico, il record di disoccupazione storico giovanile, io non so come si debba chiamare se non come una guerra economica. Però prima di arrivare a quegli anni recentissimi, vorrei citare 2 cose brevissime. Una riguarda il generale dei carabinieri Maurizio Scoppa. Ieri ne abbiamo parlato a lungo, si è dimesso dal ruolo che aveva nella regione Campania. Era stato quello che aveva dimezzato il budget, le spese della ASL 1 di Napoli, che è la più grande ASL del sud ed è anche quella più incasinata, okay? Era riuscito a dimezzare le spese, nominato dalla regione Campania per vigilare su come vengono utilizzati e non vengono utilizzati gli oltre 2 miliardi di euro stanziati da Bruxelles. La regione Campania ha 126 milioni di euro al mese da spendere per i prossimi 2 anni. Dopo solo 6 mesi si è dimesso dall'incarico perché non aveva avuto il telefono, non aveva avuto un ufficio, neanche un computer, neanche la carta da lettere, neanche una cartellina per protocollare gli elementi. Nessuno se l'era filato, si potrebbe usare anche un'altra espressione ma è troppo volgare, né il presidente della regione Campania Caldoro, né il suo direttore, che adesso voglio anche ricitare, magari riprendiamo anche il nome, il suo direttore che aveva incontrato una volta sola per firmare il contratto e poi un'altra volta per sbaglio in aeroporto. Oggi è stato ospite del nostro Alessandro Milan alle 24 mattino e ha spiegato in maniera, secondo me non c'è neanche bisogno di commentarla, i motivi delle sue dimissioni. Spesso capita che anche la forte volontà politica che c'era e indubbiamente si è manifestata anche nella mia nomina, di voler impiegare i fondi e volerli impiegare correttamente, poi viene superata e travalicata dalla inerzia, dalla inefficienza, dalla scarsa adeguatezza alle esigenze della burocrazia degli enti locali. Ma in che senso si è manifestato questo? Ce lo concretizzi? Che vuol dire? Proprio l'inerzia, nel senso che da quando ho iniziato l'attività non mi è stata data alcun mezzo, ma oltre i mezzi, anche se l'avessi voluto fare con mezzi miei, come quel poco che ho fatto, sono stato costretto a utilizzare mezzi miei. Tipo il computer, so che ha portato il computer, sì, anche la cancelleria di casa, non mi è stato dato alcun atto da poter controllare. Finora questo tempo la burocrazia regionale l'ha impiegato per studiare quali fossero i compiti che mi dovevano essere attribuiti, quando a me pare che siano ben definiti dalle norme europee e da quelle delle leggi italiane. Il suo direttore generale si chiama Dario Gargiulio, quello che incontrò solo una volta per firmare il contratto e poi per caso in aeroporto, giusto per avere nomi e cognomi. Caldoro, Stefano Caldoro, è il presidente della regione Campania. Dario Gargiulio, Gargiulio era il capo, diciamo, del generale carabinieri Maurizio Scoppa, che a questo punto si è dimesso. No, come avete sentito, non è solo un problema di cancelleria, di computer e telefonini, è che nessuno se l'è filato perché si stava ancora cercando di capire che cosa dovesse fare. Oh, deve cercare di capire perché la regione Campania non riesce a spendere 2 miliardi di euro l'anno in 2 anni, scusatemi, ok, di fondi europei che poi tornano a Bruxelles e vengono dati a altre regioni disagiate del sud Europa. Questo deve capire, perché siete così incompetenti che non riuscite a spendere i soldi dell'Unione Europea. Che c'è da capire di più? Così come non capisco cosa ci sia da capire nel caso che denuncia il ministro Franceschini, perché il 17 maggio i musei statali e comunali di tutto il paese saranno aperti dalle 20 alle 24, tranne il Colosseo, che già diciamo, come sito fa abbastanza schifo per come è gestito, e lo dico per esperienza diretta, così oggi andiamo proprio, partiamo bene. Schifo perché non c'è una didascalia, non c'è niente, non si capisce, ma file interminabili, cioè, dovrebbe essere il fiore all'occhiello di questo paese, però ci sono i gladiatori abusivi fuori, quello importante, e anche il resto degli abusivi, perché giustamente lo specchio di un paese è lo specchio di un paese. Bene, il Colosseo sarà chiuso perché ad oggi, denuncia Franceschini, non si sono trovati i 5 custodi volontari previsti dall'accordo sindacale. Nel senso che in base agli accordi sindacali per aprire il museo serve che un terzo dei lavoratori siano volontari interni. Non si sono trovati 5 volontari interni per tenere aperto il museo. Io non ho strumenti, dice Franceschini, posso solo fare un appello, non esiste la precettazione. Mi sembra assurdo che il Colosseo sia chiuso perché non si sono trovati 5 volontari. Ho una modestissima proposta per Franceschini: e licenziarli e far saltare l'accordo sindacale, visto che questo è il risultato, visto che non ci tengono a tenere il museo aperto. Devono essere volontari, va bene, i volontari non possono essere obbligati, se no non sarebbero volontari, ma a questo punto fate saltare il banco, rifate un nuovo bando per dei veri volontari. E i sindacati su questo non hanno niente da dire? Solo di concertazione, bisogna parlare di tavoli, ma quando avvengono queste cose mi aspetto una bella dichiarazione di fuoco dei sindacati che dicono che è inaccettabile che non esistano 5 volontari in base agli accordi sindacali per tenere aperto il Colosseo nel giorno in cui tutti i musei d'Italia dalle 20 alle 24 saranno aperti. Focus Economia. Musichetta morbida faccia contento l'ascoltatore che mi scrive: Barisoni, si faccia una camomilla la sera, è troppo nervoso, ce l'ha con il mondo intero. In realtà non ce l'ho con il mondo intero, sarei anche un po' stufo, ma non per questo smettiamo di raccontare di un paese che per alcuni pezzi, non tutto, per alcuni pezzi non ne vuol sapere di cambiare, che si chiamano pezzi di corruzione, pezzi di clientelismo, pezzi di burocrazia fine a se stessa e autoreferenziale, pezzi di evasione fiscale. Sarei un po' stufo perché ne parliamo da anni, ma questo paese poi è come l'araba fenice, ma in negativo, risorge sulle sue ceneri anche quando non dovrebbe. E allora la cosa di Franceschini e del Colosseo chiuso perché mancano i 5 volontari, ma sulla base dell'accordo sindacale occorre che vi siano 5 volontari, sembra di stare nel paese a zecca garbuglia ancora, no? Poi con la disoccupazione più alta da sempre, giovanile, femminile, è normale, no? E quella media, forse qualche altro custode per il Colosseo, non dovremmo avere problemi a trovarlo. No, andiamo invece sui temi seri, quindi non c'è da essere morbidi, c'è da ricordare che cosa capitò nel 2011. Voi dite: perché ti occupi del 2011? Perché da un lato, ripeto, il libro dell'ex numero uno all'economia americano Timothy Geithner, da noi ripeto definito timido Geithner, ricorda in questo suo libro, dopo tante altre memorie in cui ammette di non aver visto arrivare la crisi dei mutui, e ce ne siamo accorti, di non aver capito la severità del problema se non dopo che era scoppiato, ce ne siamo accorti, io aggiungo anche di non avere poi attaccato con forza gli dei dell'Olimpo di Wall Street, c'è un passaggio in cui Geithner dice: in quel vertice del G20 a Cannes mi fu fatta una pressione molto forte dall'Europa per orchestrare un piano finalizzato a far cadere Berlusconi, noi però abbiamo rifiutato. Questo avviene nel giorno in cui il Financial Times scrive una cosa che ha a che fare sempre con il rapporto tra Angela Merkel e l'alleato americano. Dice Angela Merkel: sono arrivata addirittura al punto di piangere, mi sono venute le lacrime agli occhi, tanto ero pressata dai partner europei e dagli Stati Uniti per aumentare il sostegno finanziario ai paesi del sud Europa, e ho risposto con le lacrime agli occhi: non è giusto, non posso decidere io quello che non mi compete, che spetta invece alla Bundesbank. In quei giorni noi raccontavamo di questo vertice. Faccio notare due o tre dettagli per ridere. Lo spread italiano viaggiava vicino ai 500 punti. Il credit default swaps, ossia la polizza assicurativa per assicurarsi nel caso si fosse investito sull'Italia, era a 502 punti. Secondo la Deutsche Bank, l'unico compratore del debito italiano in quel momento sul mercato era la BCE, cioè non c'era nessuno straniero che rischiasse di comprare debito italiano. I gruppi bancari fuggivano dal debito italiano. BNP Paribas proprio in quel giorno aveva fatto scendere la sua partecipazione a 12 miliardi di euro, ma come se non bastasse c'era l'ipotesi serissima di un commissariamento del paese. Il giorno dopo del vertice vi fu anche una conferenza stampa Berlusconi-Tremonti. Berlusconi disse: attenzione, abbiamo rifiutato l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale. E Berlusconi però disse anche quella famosa frase in cui diceva: l'attacco ai titoli è italiani, è una moda passeggera. Quella famosa frase sui ristoranti poi in Italia sono pieni, ma insomma chiaramente nemmeno Berlusconi percepiva la gravità della cosa nel definire un attacco al debito italiano una moda passeggera. Ma il punto ora non è quello che percepisse o come Berlusconi percepisse la situazione, è se veramente vi sia stato un piano orchestrato per farlo cadere. In collegamento con noi da New York c'è Mario Platero. Mario, buonasera. Buonasera. Allora Mario, tu eri in quei giorni assieme a altri inviati del Sole 24 Ore a Cannes per il G20. Adesso io ho le informazioni sul traffico, però prima una domanda velocissima te la voglio fare. La ricostruzione di Geithner ti sembra verosimile o no? Ma guarda, la ricostruzione di Geithner, ovviamente lui è un testimone diretto di quello che succedeva in quelle stanze, ma secondo me quello che succedeva in quelle stanze era semplicemente il riflesso di quello che era già successo nelle altre stanze del potere, cioè nei palazzi romani, dove ovviamente una manovra politica era già in corso da settimane, se non addirittura da mesi, e quindi credo che i capi di governo che partecipavano a quel vertice cominciassero a prenderne atto. Quindi la risposta, diciamo, sì, secondo te, nessuno vuol dire che Geithner mente, però sappiamo che nelle ricostruzioni... Cioè, quello che voglio dire, non credo che sia stato deciso a Cannes, ovviamente a me questo non risulta, ma mi sembrerebbe strano che a Cannes si decide che cade il governo Berlusconi. A Cannes semmai si prende atto della difficoltà di un governo, si sa, perché lo sapevamo tutti, perché se ne parlava sui giornali italiani che il governo Berlusconi era in difficoltà, si sapeva, perché lo scrivevano i giornali italiani, che Monti poteva essere un candidato a prendere in mano il nuovo governo, e dunque evidentemente ne hanno parlato, ma l'idea che ci sia il complotto, l'idea che a Cannes si sia deciso di orchestrare un ulteriore attacco ai titoli italiani, ecco, io questo non lo credo. Dopo il traffico vorrei capire un'altra cosa, perché Angela Merkel dice che lei era sull'orlo delle lacrime per le pressioni che riceveva soprattutto dalla Casa Bianca. Non penso che Sarkozy potesse far piangere la Merkel, anzi la faceva ridere quando vergognosamente, l'ho sempre detto, sfottevano Berlusconi, quindi l'Italia, in un altro vertice, vergognosamente, poi Sarkozy l'ha pagata. Comunque, però dico, Angela Merkel si è arrivata alle lacrime agli occhi e forse per la pressione che ha sentito dalla Casa Bianca. E anche l'ultima domanda che avrò per te è sul ruolo della Casa Bianca in questa crisi. Sappiamo che molti pensano che Renzi sia un prodotto dell'ambasciata americana in via Veneto e che comunque l'America stia pilotando quello che sta capitando nei paesi ad alto rischio di debito del Sud Europa. Si tratta di monitoraggio ma di certificazione, non è stata imposta ma è stata richiesta. Per quanto riguarda il fondo salva stati, noi pensiamo di non averne bisogno, noi riteniamo davvero che sia un po', come dire, una moda passeggera quella per cui i mercati si avventino sui titoli del debito sovrano italiano. Allora, questa era la dichiarazione di Berlusconi il 4 novembre del 2011. Non c'è bisogno di un grande esegeta per capire che o in buona fede o in cattiva fede, sfuggiva completamente la gravità della situazione a Berlusconi. Tutto è stato tranne che una moda passeggera. Ci siamo beccati lo spread così fino a oltre metà del 2012 con un costo salatissimo per il paese. Detto ciò, Mario Platero, Angela Merkel che piange o rischia di piangere per le pressioni americane, diciamo così, ti risulta? No, io non l'ho vista piangere, l'ho vista commossa in altre occasioni, l'ho vista commossa quando con il presidente Bush, per esempio, girava nel suo paese dove è nata, dove è cresciuta, ma non l'ho vista piangere per questioni economiche mentre combatteva coi leader. Magari lo ha fatto davvero dietro le quinte, noi come sai non possiamo entrare, anche se qualche volta ci proviamo e qualche volta ci riusciamo, nelle sale no, di ma no, la domanda era, scusami, la pressione della Casa Bianca e la preoccupazione della Casa Bianca tale da creare uno stato emotivo ad Angela Merkel. Ti ripeto, secondo me la Merkel era sotto pressione non soltanto, ricordiamo il contesto, da parte della Casa Bianca ma da tutti gli altri. La Germania allora aveva già chiesto la linea dura, ricordiamo che la Grecia era sull'orlo del collasso, il contesto generale è che alle riunioni del Fondo Monetario del settembre precedente c'era già l'idea di un piano e c'era già un accordo per mettere insieme un fondo che avrebbe agito da garanzia nei confronti dei paesi più deboli. La Merkel lo rifiutò, la Germania lo rifiutò e quindi si sperava che a livello di capi di Stato e di Governo si potesse a Cannes, dove tra l'altro la cosa che mi colpì di più, che ricordo di più, è che erano delle giornate orrende, pioveva di rotto, erano i giorni in cui, ricorderai, c'erano state le alluvioni anche a Genova, quindi in questa atmosfera da temporale, in questa atmosfera da diluvio, non presagiva bene, e la Germania e la Merkel finì per resistere a quello che non era, secondo me, ti ripeto, questa è la mia analisi, una resistenza da parte della Bundesbank, perché la Bundesbank fa la politica monetaria, ma l'ipotesi sì, di creare anche secondo me un fondo salva Stato, l'ipotesi di creare dei bond europei che aveva proposto Tremonti, l'ipotesi di creare delle manovre di spesa come avevano già fatto gli Stati Uniti, cioè di public spending per sostenere l'economia, beh, quelle riguardavano esclusivamente il governo della Merkel, la Merkel stessa e il suo ministro. Ultima domanda, ho due minuti scarsi. Dietro Renzi, cioè dietro l'altalenarsi della politica italiana di questi anni, c'è la Casa Bianca, c'è l'ambasciata americana di Veneto, come alcuni continuano a dire. Sebastiano, ecco, queste sono, devo dire, delle dietrologie nostrane che così emergono perché si pensa che ci sia qualcuno nella stanza dei bottoni che stia manovrando un po' tutto. Io ti posso dire che per mia testimonianza diretta la Casa Bianca aveva stabilito, il presidente Barack Obama in persona, ho parlato con funzionari molto alti della Casa Bianca, avevano stabilito un ottimo rapporto con il presidente del Consiglio Letta e in qualche modo speravano di poterlo continuare, come prima avevano stabilito un ottimo rapporto con Monti, ma il tutto è avvenuto dopo. Tra l'altro, come personalità, Letta è un uomo più cerebrale, più freddo, e quindi si incontrava molto bene con Obama. Renzi aveva incontrato, questo è un dettaglio che posso dirti, un importante funzionario della Casa Bianca durante la convention democratica, e il risultato, quindi un anno e mezzo prima circa, il risultato di quell'incontro non fu molto positivo, perché l'avevano preso come un ragazzo molto simpatico, molto energico, ma non del livello che potesse essere un capo di governo. Quindi quello che succede nella nostra politica, succede nella nostra politica, gli Stati Uniti poi ne prendono atto, nel frattempo Renzi è molto maturato sicuramente e oggi lavorano col Presidente del Consiglio in carica e credo che nell'ultimo vertice sia stabilito anche un buon rapporto con lui, ma non è che la Casa Bianca decide. No, è importante perché c'è sempre una parte del gruppo Bilderberg, della dietrologia a ogni costo, che dice Renzi è arrivato tramite l'ambasciata del Veneto. Tu ci confermi che invece il rapporto era ottimo con Letta, con Monti, e di Renzi invece sapevano poco e gli lasciava, non dico più perplessi, ma così, con maggiori incognite. Grazie Mario Platero. 18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti sms, commenti su quello che capitò in quel weekend del novembre, del 3-4 novembre 2011. Alcuni dicono che è chiaro che ci fu un complotto, altri dicono che il complotto non esiste, che semplicemente ci facciamo del male da soli. Allora, secondo me è importante distinguere tra complotto in senso stretto e pressioni e preoccupazioni dei partner europei e anche degli Stati Uniti per quello che stava capitando all'euro, all'attacco soprattutto all'Italia e alla gestione italiana della cosa. È normale che partner politici, commerciali ed economici e anche militari, visto che siamo nella NATO, si preoccupino di cosa sta capitando in Italia. È invece non normale, non accettabile che vengano fatte ordite, complotti e orchestrate, capito, trame. Però sono due cose un po' diverse. Detto ciò, andiamo alla borsa, che oggi chiude unica sostanzialmente in Europa in negativo, meno 1,11%. Londra infatti guadagna lo 0,30%, Parigi più 0,25%, Francoforte più 0,54%, l'America sta guadagnando lo 0,1%. Il motivo si chiamano conti di Telecom Italia. Telecom perde il 5,20%, conti di Campari, il titolo perde il 3,80%, poi di nuovo debole Fiat, meno 2,90%, e deboli le banche popolari, Pop Emilia Romagna meno 2,54%, UBI Banca meno 1,80%, Banco Popolare meno 1,70% e Pop Milano meno 1,50%. Ciao Condina, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Telecom e Campari. Come dicevi tu, due titoli che oggi hanno decisamente appesantito il listino di Milano, mentre invece le altre borse continentali hanno aggiornato i massimi degli ultimi sei anni. Telecom meno 5,2%, dei conti diciamo in chiaroscuro ma comunque deludenti sul fronte dei ricavi, dell'EBIT e soprattutto dell'indebitamento. Sappiamo che gli operatori guardano al debito di Telecom come forse alla variabile più importante per quanto riguarda il gruppo TLC. Per quanto riguarda Campari, anche in questo caso ci sono conti che sono peggiori delle attese. Ci si attendeva un fatturato di poco sopra 300 milioni, invece è arrivato solo a 288 milioni. Stesso discorso per l'EBITDA, cioè per il MOL, che è arrivato a 47 milioni contro stime di quasi 55 milioni. Allora, nel giorno in cui BlackRock è entrata, dopo essere entrata in Unicredit con il 5,2%, primo azionista, in Intesa San Paolo con il 5%, secondo azionista, nel Monte dei Paschi è il terzo azionista, ha ridotto la sua quota al 3,2%, adesso è entrata anche nella Popolare di Milano al 5,14% del capitale. Devo dire che al di là di questo, però, oggi tutte le popolari sono andate male. Eh sì, hanno un po' risentito dei rialzi dei giorni scorsi. A dire vero, la Popolare di Milano è andata bene fino diciamo al primo pomeriggio, era sopra la parità, poi diciamo che i rialzi hanno coinvolto anche l'istituto di Piazzetta Meda. Ancora, per quello che riguarda i titoli, il migliore in assoluto è Prysmian, più 3%, va detto che era calata moltissimo nelle ultime sedute, l'ex Pirelli Cavi. Assolutamente, nelle ultime quattro sedute aveva perso all'incirca il 15%, ciò perché sostanzialmente aveva indicato al mercato una previsione per l'EBITDA di quest'anno decisamente inferiore alle stime. Il mercato si aspettava 630 milioni, la previsione era stata tra 530 e 580, quindi una forbice abbastanza importante che era stata duramente punita dagli operatori. Oggi un piccolo rimbalzo, più 3%, se paragonata appunto a quanto aveva perso nelle ultime sedute. Ancora, per quello che riguarda i titoli, Autogrill, abbiamo detto, ma tu già lo ricordavi, all'inizio piatta, poi ha perso il 2%. Faccio notare che anche il Monte dei Paschi dopo ieri ha perso in borsa. Devo dire che sul fronte finanziario forse la migliore Unipol Sai, che è invariata, e meno di altri ha perso Unicredit, anche se dopo i conti meno 1,11%. Ma dicevo, tra chi è positivo invece anche Steam Microelectronics più 0,85%, un po' il lusso più 0,3%, Tod's, Luxottica invariata, invariato anche il titolo Ferragamo. Ancora, per quello che riguarda altri titoli, Fiat diciamo meno 2,88%, migliori e peggiori in assoluto Eccoli qua, Bastoggi più 13%, Mono TV France più 7,60, Eurotech più 4,40, Fiera Milano più 3,13, il fronte opposto invece El Venture Group meno 6,31, Media Contact meno 6,20, De Longhi meno 5,70%. Monte dei Paschi, c'è un... Monte dei Paschi veniva, come dicevi tu, da questi conti del primo trimestre in cui la perdita è salita a 174 milioni rispetto ai 101 milioni dello stesso periodo del 2013, ma comunque insomma oggi è stato tutto il comparto finanziario a essere diciamo penalizzato sul listino di Piazza Affari. Sì, è tardi, non è vero che non ci preoccupiamo, i lavori dell'Expo sono in ritardo, però Renzi oggi lo Stato a Milano più forte dei ladri, l'Expo non va fermato. Confesso il senso di sbigottimento quando vedi, nel rispetto ovviamente di tutte le presunzioni di innocenza che ciascuno di noi sottolinea e evidenzia, perché non si può essere garantisti solo quando va di moda farlo, noi siamo garantisti sempre, quindi io sono sempre per il rispetto delle prerogative individuali. Certo però che rimane uno sbigottimento, una amarezza pazzesca quando vedi delle immagini, quando vedi l'immagine di togliere dalla giacca una busta, quando vedi i nomi che ritornano a un passato che sembrava archiviato e sepolto. Da qui però noi diciamo con la stessa forza e la stessa intensità, nell'evidenziare la stima, il rispetto e l'apprezzamento per l'attività inquirente e per la magistratura che svolge un compito delicato e difficile, con grande rispetto istituzionale e con grande delicatezza, nel sottolineare e evidenziare questo nostro sentimento di stima e di rispetto, diciamo anche con grande decisione e determinazione che non lasceremo a chi ruba la possibilità di rubarci anche un pezzo del nostro futuro. Chi ruba va fermato, ma non si fermano le opere, si fermano i ladri. E se questo è il principio di fondo, non è accettabile che ci sia chi oggi, nella logica sfascista e distruttiva, dica fermiamo l'Expo. Di fronte a fenomeni di malaffare non si fermano i lavori pubblici. Ci si impegna perché i lavori pubblici siano fatti nel rispetto di tutte le norme e si va avanti con decisione e determinazione, perché lo Stato è più grande dei ladri, perché lo Stato è più forte dei ladri. E poi l'appello del Premier, chiedo mano anche alle imprese, lo Stato deve essere più presente, ma chiedo una mano anche al tessuto produttivo milanese, serve uno sforzo in più anche perché cambi il clima nel nostro paese e torni la speranza. Io vorrei chiedere però una mano alle donne e agli uomini del tessuto produttivo milanese, vorrei chiedere una mano alle rappresentanti e rappresentanti delle istituzioni, c'è bisogno di uno sforzo in più, questo è un momento nel quale sembra che l'Italia non abbia più possibilità di futuro, sembra che tutto ciò che viene fatto debba essere fermato, bloccato o in qualche modo tenuto sospeso, sembra che ogni giorno sia un derby tra chi immagina che è tutto finito e che non abbiamo più chance e chi invece faticosamente la mattina prende, si alza presto e torna a fare quello che deve fare. Perché cambi il clima e in qualche modo perché cambi l'umore, non c'è dubbio che da parte delle istituzioni centrali ci sarà la necessità e il bisogno di intervenire con sempre maggiore presenza e forza e determinazione. Però io vorrei chiedere una mano a voi che rappresentate il tessuto produttivo di Milano e che quindi da questo punto di vista rappresentate un pezzo significativo dell'Italia che ce la fa, dell'Italia che alzandosi la mattina presto dà una chance e una speranza alle future generazioni. Non molliamo adesso, perché mollare adesso sarebbe la sconfitta di ciò per il quale quotidianamente combattete lavorando e mettendovi in gioco. Il mio appello è quello di considerare l'Expo non un fatto burocratico, non un fatto culturale, è un fatto costitutivo e identitario. È la grande scommessa per l'Italia di rimettersi in gioco. E poi Giuseppe Sale in conferenza stampa che annuncia il nuovo nome, ma anche le altre frasi di Renzi. e quindi saremo operativi, cioè in prima parte del governo essere operativi nel rispetto di tutte le scadenze, come l'Italia sa fare quando è sotto pressione, aggiungo io solo quando è sotto pressione. E poi ancora se vinciamo la sfida dell'Expo facciamo l'Italia. Allora, so già la battuta che circola quando Renzi dice lo Stato è più forte dei ladri, il problema è che spesso le due cose coincidono, però non è aria di battute con quello che stiamo vedendo sull'Expo, e non è vero che poi, insomma, è una battuta, anche perché va a offendere tutti gli onestissimi che sono la maggior parte servitori dello Stato, per alcuni corrotti, strutturalmente corrotti, visti i nomi in alcuni casi, ecco. E vado anche sugli imprenditori. Ieri chiedevamo di questo Maltauro se l'ANCE, l'associazione dei consultori, l'avesse già espulso. Risposta no, però abbiamo un codice. Ecco, espelletelo subito, visto che Maltauro sta anche confessando. È un recidivo, è un imprenditore che va espulso da qualunque associazione degli imprenditori, che sia dell'edilizia o di quant'altro. Così ognuno poi si prende le sue responsabilità e può parlare giustamente anche l'ANCE, come ieri ha fatto ai nostri microfoni il presidente Buzzetti, ricordando appunto che lui sarà espulso per il codice di autodisciplina. Invece Grillo sul commissario, su Cantone, ci scherza sopra, mica tanto, dice ora c'è il commissario del commissario. È un ruolo che non riesco a capire, se arriva e si rende conto adesso questa super task force che vuol fare per il controllo, ma ormai è troppo tardi. Quindi va a sostituire un commissario, anche lui che si accorta, ha detto ma come è potuto succedere? Allora, Guido Gentili, oggi, editorialista Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Oggi tu scrivi su Sole 24 Ore: nervi saldi per un miracolo, troppo alta la posta in gioco per Milano e per l'Italia in termini di credibilità e di crescita. Secondo te, alla luce, insomma, della visita di oggi di Renzi, poi c'è stata anche la conferenza stampa di Grillo poco dopo, questa azione è servita, se no non possiamo sapere l'indagine della magistratura, ma dico, è servita a così cautelare, proteggere anche Sala, i vertici dell'Expo, fargli percepire che dietro c'è il governo e che i lavori devono andare avanti, oppure no? Perché siamo anche in campagna elettorale, prego. Da parte di Renzi certamente sì, perché ieri aveva confermato la piena fiducia a Sala e credo che oggi, presente lì a Milano, abbia potuto dare testimonianza di questa scelta netta. D'altra parte Renzi non ha alternative, deve andare avanti. E quindi andare avanti significa in questo momento confermare Sala, che non è al momento, almeno risulta, non è toccato, sfiorato nemmeno, diciamo, delle inchieste che ci sono state, e quindi è giusto cercare di procedere su una strada che naturalmente è impervia, perché già l'Expo era in ritardo rispetto alle date previste di esecuzione delle opere. Adesso, diciamo, si è fatta ancora più ripida la salita, ma non c'è alternativa, a meno che non vogliamo chiudere la partita e rinunciare, ma questo mi sembrerebbe veramente un disastro assoluto, anche perché il fatto, secondo me, importante è che a ieri la magistratura, come ha detto lo stesso Sala nel corso dell'audizione alla Commissione Antimafia in Parlamento, la magistratura non ha bloccato alcun appalto o ha messo in discussione alcuna gara. Certo. Quindi diciamo, ancoriamoci a questo almeno, direi, no? Allora, invece rispondo ancora una volta a chi dice avete dato 6 minuti a Renzi, erano un po' di meno, comunque 30 secondi a Grillo. Allora, rispiego. La par condicio non si applica per il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni o dei ministri nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi, quando Grillo sarà Presidente del Consiglio, gli daremo 6 minuti e Renzi ne avrà 30, finché Renzi, Presidente del Consiglio, ha 6 minuti, perché parla come Presidente del Consiglio, e Grillo 30. Tra l'altro è più un errore mandare Grillo, ma l'ho voluto fare apposta, perché la par condicio a questo punto mi obbligherebbe a mandare anche 30 secondi di tutti gli altri, che non Renzi, dove non esiste par condicio. Lo spiego agli ascoltatori, che vedono sempre delle scelte dietrologiche in quello che facciamo, e ti chiedo invece, per concludere, Guido Gentili, perché parli di nervi saldi? Nel senso che, insomma, Renzi giustamente fa il suo ruolo, viene qua, rivendica l'appoggio, la sfida per Milano. Parlo di nervi saldi perché la situazione è molto complessa ed è dimostrato anche dalla spaccatura che c'è all'interno della magistratura su questa inchiesta, con la polemica da Bruti Liberati e un altro magistrato, Robledo. Quindi è una situazione molto complicata, non si risolve con dei facili slogan, con delle promesse, con degli annunci mirabolanti, ma si fa, diciamo, lavorando duro e soprattutto, diciamo, nella massima trasparenza, per restituire fiducia su un evento, diciamo, che per noi può essere fondamentale, non solo per Milano, ma ovviamente per l'Italia. Quindi in questo senso nervi saldi, cioè non ci lasciamo prendere anche da questo discorso, adesso arriva la task force, ecco, certamente può essere una cosa utile, può essere importante, ma non pensiamo di poter, diciamo così, risolvere la questione con degli slogan. Solo un lavoro duro e con grandissimo, e nella grandissima trasparenza, ci assicura di fare questo, davvero questo miracolo, di riuscire a portare avanti questa iniziativa. E secondo te il fatto che che queste cose capitino in piena campagna elettorale è un limite a mantenere i nervi saldi? Questa è l'Italia, questa è, anche per questo dobbiamo mantenerli nervi saldi, perché questa non è la prima volta che succede, forse è un caso, forse no, comunque questo è un dato di fatto, che nelle campagne elettorali poi spesso, diciamo, arrivano queste piogge torrenziali che magari sono in grado di, diciamo, spostare anche degli equilibri politici. Non è mica la prima volta che capita. Ah beh, su questo è un paese molto abituato alla cosa. Allora, grazie, ahimè, grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Sì, e speriamo che vigilino veramente, che non capiti, così chiudiamo, come ogni tanto facciamo, da dove siamo partiti, con quello che è successo alla Regione Campania. Non ho nessun problema se il direttore generale del generale dei Carabinieri, che si è dimesso perché era impossibilitato ad operare, vuole venire in trasmissione, non ho problemi, anche perché mi fanno notare gli ascoltatori che lui in mano ha tutti i fondi europei, quelli che la Campania non riesce a spendere, e non riesce a spenderli, mi riferisco a Dario Gargiulio, sono 2 miliardi in 2 anni, quindi intanto mi sarei aspettato qualche dichiarazione, visto che si dimette un tuo collaboratore perché non ha il telefono, non ha la fotocopiatrice, non ha una stanza, non ha la carta, nessuno gli chiede niente, lei lo incontra una volta per fargli firmare la cosa e poi per sbaglio in aeroporto, non so, ci vuole spiegare qualcosa, caro Dario Gargiulio, domani la cerchiamo come abbiamo cercato oggi, lei ha in mano tutti i fondi europei, ci vuole spiegare perché nel frattempo non riuscite a spenderli? Perché sennò il sospetto è che questo generale dei Carabinieri stesse un po' sulle scatole, no? Visto che poi in Campania i fondi europei hanno una lunga tradizione nel non essere spesi, o nell'essere spesi male, o nell'essere spesi in maniera fraudolenta. Speriamo domani di avere ospite Dario Gargiulio, che qualcosa dovrà spiegarci, anche perché è un dirigente della pubblica amministrazione, percepisce uno stipendio da dirigente della pubblica amministrazione. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani con o senza Dario Gargiulio in diretta dalle 17 in poi.